I lavori di domani di Anna Marino. C'è una figura professionale nuovissima in grado di gestire progetti di comunicazione integrata e cross-channel, il Nexter, che per sensibilità e background culturale in futuro sarà in grado di rappresentare una connessione virtuosa tra il mondo della comunicazione tradizionale e quello legato ai media digitali. Sarà un professionista che coniuga competenze di tipo creativo, familiarità con le principali tecniche di comunicazione e capacità di concepire un pensiero strategico, facendo della padronanza della componente visuale dei social media il suo punto di forza. Anche attraverso le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, dalla realtà virtuale all'intelligenza artificiale, al project mapping, ai meccanismi per creare engagement utilizzando le dinamiche proprie del mondo dei videogiochi, imparerà a governare i tanti elementi che costituiscono una campagna pubblicitaria integrata. Ce ne parlano oggi Sergio Nava e Alessandro Sabini della formazione del Nexter, che appartiene al futuro. Chiediamo ad Alessandro Sabini, Chief Creative Officer di McCann World Group Italy. Quali sono queste figure così ricercate secondo la vostra esperienza e dove si possono trovare le offerte che aprono le porte di un mondo lavorativo del domani? Allora, queste sono figure che già in un certo senso esistono e che esprimono la loro creatività su canali come TikTok. Noi vorremmo cercare semplicemente di dargli un nome a queste persone. Abbiamo pensato di chiamarli Nexter, sono le persone che dialogano con la tecnologia e con la creatività, che sono in grado di fare montaggi, regia, design, ma che già parlano il linguaggio dei data analyst, dei programmatori e di chi si occupa di mobile. Vorremmo semplicemente creare una figura non ibrida, perché stiamo parlando comunque di creativi, ma creativi che siano in grado anche di capire il mondo di domani, quello che evolve continuamente ogni giorno. Questa figura che compiti dovrebbe avere, che riveste e diciamo le skill, no? Le competenze che deve avere? Perché McCann World Group sta facendo questo master insieme a Marangoni per formare comunque dei creativi, persone in grado di usare programmi di editing, ovviamente tutto quello che riguarda il design, quindi tutte le maggiori applicazioni di design, ma che siano anche in grado di capire qualcosa di codici, di tecnologia. Nel master della Marangoni sarà molto importante il ruolo del nostro Head of Innovation, perché comunque la tecnologia sarà al centro dell'insegnamento. Molto importante è anche capire qual è la forchetta di guadagno per queste nuove figure, anche a seconda della seniority, magari sono più gettonate proprio perché hanno una specificità della formazione. Sì, sono figure nuove, quindi entreranno in agenzia come junior. Apriamo ovviamente gli stage ogni anno, sono stati retribuiti, forse tra i più retribuiti in Italia. Essendo figure nuove, sono figure destinate all'inizio ad avere dei guadagni relativi, ma sono destinate ad avere degli guadagni molto importanti nel futuro, proprio perché rari, se vogliamo, soprattutto se sono passate attraverso un percorso scolastico, un percorso universitario, come quello della Marangoni, che tende a formare, a mettere ordine in questo momento, che tende a mettere ordine là dove c'è un po' un caos creativo, diciamo. Che cosa fate voi per incentivare questi nuovi lavori? Ovviamente non solo orientamenti e consigli, ma anche soprattutto questa formazione che avete messo in piedi per queste nuove figure. Prevede la collaborazione con un importante ente e scuola, l'Istituto Marangoni, la School of Design di Milano. Ecco, che cosa avete pensato? Questa unione di queste due realtà, la McCann e la Marangoni, è una cosa storica e abbastanza importante. Per tutto quello che riguarda la formazione, noi all'interno della nostra agenzia abbiamo figure molto diverse. E quello che facciamo solitamente, ed è questa una cosa molto importante che riguarda il nuovo master, noi solitamente quando prendiamo figure meno creative, come per esempio possono essere content manager, li facciamo passare attraverso il reparto creativo, sempre, per contaminarli, che ha più un'origine advertising, di comunicazione più pura, per respirare quello che è più un'atmosfera più creativa. Ecco, questo è la nostra intenzione nel master, cioè creare proprio questa contaminazione tra mondi che sono apparentemente molto molto diversi e contrastanti, ma che in un futuro si avvicineranno sempre di più. In che cosa consiste questo master? Come si svolge? Quali sono gli step? Quello che posso dire dalla mia parte, perché poi io parlo per McCann, è che sicuramente prevederà la presenza di molti docenti non docenti, ovvero professionisti che fanno parte dell'organico di McCann, soprattutto top manager. Io farò parte comunque di questi. Ci sarà il nostro head of planning, head of innovation, head of technology, ci sarà il nostro amministratore delegato. Quindi davvero una formazione sul campo con persone sì. Che sono realmente nella vita lavorativa, che poi queste figure di Nexter andranno a svolgere insomma il proprio ruolo, già formati in modo tale che sappiano il mondo lavorativo in cui verranno catapultati. Assolutamente sì, e poi ci saranno sicuramente delle esperienze all'interno della nostra agenzia, e ci saranno probabilmente anche dei docenti, in realtà sono professionisti, dei colleghi internazionali provenienti magari da Londra, che avranno delle lezioni. Un'immersione in un mondo didattico professionale. Parliamo di questa nuova figura del Nexter con Sergio Nava, direttore dell'educazione dell'Istituto Marangoni School of Design di Milano. In che cosa consistono questi nuovi lavori che sono sempre più gettonati nel campo della comunicazione e questa nuova figura? All'interno del nostro, diciamo, modus operandi nella creare nuovi corsi, la scuola dell'Istituto Marangoni Milano Design cerca di confrontarsi con le industrie, quindi con il mondo del lavoro. Cerchiamo di analizzare anche, facendo delle analisi su nuovi trend, scoprire quali sono le tendenze del mercato, del lavoro e quali sono le nuove opportunità. Vi voglio portare oggi un caso specifico legato a uno degli ultimi corsi che abbiamo creato, il Digital Art Direction Master, nato in collaborazione appunto con un'agenzia di comunicazione, la McCann Worldwide Italia. Questo connubio, quindi questa collaborazione, è nata appunto da un nostro input. Li avevamo chiamati per una sorta di consulenza, chiedendo loro quali erano le nuove esigenze del mondo della comunicazione. Dopo una serie di riunioni abbiamo scoperto che mancava una figura all'interno del mondo della comunicazione, era una figura ponte, cioè una figura che potesse portare tutte le nuove opportunità del mondo del digital, delle nuove tecnologie come anche l'intelligenza artificiale, tutto quello che è il mondo della realtà virtuale, anche il gaming, all'interno delle agenzie di comunicazione. Ecco, che cos'è questa figura? Abbiamo detto Nexter, cioè qualcuno che il next ci fa pensare a il prossimo, il futuro, a qualcosa di vicino. Ecco, certo. Che cos'è questo Nexter? È un attuatore, cioè è una figura all'interno del mondo della comunicazione che ha delle specificità, quindi conosce addentro tutto quello che sono le nuove tendenze del mondo digital, ma anche tutte le nuove tendenze della tecnologia, e le conosce così in profondità che le porta delle opportunità all'interno dell'agenzia per poterle poi sfruttare per le campagne creative, ma anche per poterle sfruttare per consulenze ai loro clienti. Diciamo. Per fare questo deve per forza formarsi o deve essere magari anche un nativo digitale? Ma dove ci si forma? Come avviene la vostra formazione? Cioè bisogna essere esperti di software, programmazione, di social? Come avviene la vostra formazione? L'idea di questo master è nato appunto dal fatto che non esiste una figura attualmente completa. Esistono esperti di comunicazione ed esistono esperti di nuove tecnologie, tutto il mondo del digital, ma una figura che abbia una visione ampia sui due mondi e che possa connetterli fino ad oggi non era stata ancora individuata e non c'era ancora, diciamo, un percorso formativo. Infatti, ecco, il percorso formativo qual è? Il percorso formativo è quello che abbiamo creato attraverso questo master, è quello di poter dare la possibilità a questi studenti di poter fare l'esperienza all'interno di un'agenzia di comunicazione, quindi durante il percorso di insegnamento avranno anche dei momenti interni all'agenzia dove capiranno le dinamiche tradizionali, quindi che vengono gestite all'interno di un'agenzia di comunicazione, e tutta una serie di incontri con specialisti, professionisti del mondo del digital e di tutto quello che è legato alle nuove tecnologie, per poter fare una cultura, come dicevo prima, un bagaglio culturale molto più esteso e profondo rispetto a quello che normalmente vengono date nei corsi di comunicazione. Quando parte questo master? Quali sono le lezioni in presenza o online, da remoto? Adesso siamo in un periodo di emergenza sanitaria che ci ha fatto apprezzare anche l'apprendimento a distanza, e soprattutto quali sono gli step, dove andranno a studiare questi Nexter? partirà a febbraio 2021, verrà fatto on campus ma anche, diciamo, in modalità fluida. Parte dei contenuti verranno anche erogati online. Durante il percorso del master è prevista una settimana intensiva all'interno dell'agenzia, dove lavoreranno su dei veri progetti, e durante tutto il percorso avranno una serie di brief legati appunto a questi aspetti, per poter dare anche l'opportunità alle aziende del design e della moda, con le quali collaboriamo spesso, di poter sfruttare queste nuove opportunità e quindi per poter sfruttare quello che può darci il mondo del digital e delle nuove tecnologie.